I lavori di domani di Anna Marino. Vi siete mai chiesti chi c'è dietro agli effetti speciali per cinema e film d'animazione? Un artista o designer che sa gestire un insieme di tecniche e tecnologie utilizzate nell'industria dell'intrattenimento per simulare degli eventi altrimenti impossibili da rappresentare in maniera tradizionale, in quanto troppo costosi, pericolosi o semplicemente contrari alle leggi della natura, ma anche per ricreare ciò che in natura non esiste. E oggi chiediamo a una vera artista di effetti speciali per cinema e film d'animazione come fa a inventare suggestioni ed emozioni e anche suoni e rumori e dove ha imparato a farlo, e ci darà anche le inedite indicazioni e dritte utili per app e siti di formazione e lavoro. Quindi ascoltiamo e prendiamo appunti con Cristiana Covone, artista di effetti speciali per cinema e film d'animazione, innanzitutto per capire quali effetti speciali può riuscire a creare. Per effetti speciali si intende quindi quegli effetti dinamici in 3D che possono essere esplosioni, tornadi, tempeste o anche simulazioni di vestiti o capelli di creature fantastiche. Quindi elementi che praticamente vanno a contribuire al racconto della storia o rendono le scene ancora più realistiche, ecco. Questo lavoro come lo hai imparato? Da dove sei partita? Dove ti sei formata? Allora, io sono abruzzese e ho iniziato il mio percorso universitario a Torino, presso il Politecnico di Torino, facendo la laurea triennale in design e comunicazione visiva. Questo percorso mi ha dato l'opportunità di avere un overview generale su tutte le varie discipline della grafica, dei video e così via, ma soprattutto in ambito progettuale. Qui è dove appunto ho vissuto in collegio a Torino per gli ultimi 2 anni del mio percorso triennale, dopodiché appunto ho continuato i miei studi all'estero, ho deciso di studiare in Inghilterra presso la Bournemouth University. Parliamo della tua giornata tipo, che cosa fai? Ovviamente io inizio la mia giornata con un bello espresso italiano, non importa in quale parte del mondo sono, poi a seconda dei task, ovvero i compiti o scene specifiche che mi vengono assegnate dalla produzione di un progetto particolare oppure dal mio team leader, sono super operativa. Lavoro su quella particolare esplosione o splash di acqua o quel che sia, devo appunto mostrare delle versioni, e una volta che sono soddisfatta di una versione preparo un'anteprima che verrà poi mostrata al mio team leader, il quale la approverà oppure mi chiederà di modificarla. Questo è un processo di revisione continuo fino alla finale approvazione di team leader, supervisor e regista, che una volta che sono contenti di quella versione verrà poi passata al dipartimento successivo, perché è tutta un po' una catena di montaggio a seconda del dipartimento, e che arriverà poi al risultato finale di quella scena che verrà poi messa insieme a tutte le altre scene per creare il film. La tua formazione è anche su programmi specifici, quali sono? Per quanto riguarda il dipartimento di effetti speciali, il software più utilizzato si chiama Houdini, è un programma molto tecnico e per questo posso dire che è un ruolo molto ricercato, in quanto richiede la profonda conoscenza di questo software. Esistono anche dei corsi proprio specifici per imparare questo software. Ecco, qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro, anche a seconda della seniority, anche se tu sei molto giovane, insomma, intorno ai 28 anni? Io mi trovo in un livello medio al momento. Come tutti i lavori, si può dire che la percentuale di guadagno dipende ovviamente dal paese in cui sto lavorando e dal costo di vita in generale. Per esempio posso dire che Londra ha dei costi molto più alti di Stoccarda, che è la città dove vivo adesso. Poi ci sono ovviamente gli studi più affermati che possono pagare gli artisti di più rispetto ad altri studi, però sommariamente posso dire che un artista junior può guadagnare intorno ai 20.000 euro all'anno e un senior può arrivare agli 80.000. Però sono significativi e oltretutto anche fanno gola, perché sono degli effetti speciali che tutti cercano in qualche maniera. È un lavoro molto ricercato il tuo? Dove si può trovare annunci, application, LinkedIn, altri siti dove si può anche verificare la disponibilità di posti? Certo, sicuramente LinkedIn è uno dei appunto mezzi più utilizzato in questo campo. È sì un lavoro molto ricercato, come dicevo prima, richiede appunto una profonda conoscenza di particolari software, un occhio artistico, l'attenzione ai dettagli e sicuramente un buon management personale. Questo è un lavoro inoltre che si adatta a moltissimi campi, quali quello cinematografico, pubblicitario, anche alla creazione di videogames e così via. Praticamente tutto quello che può interessare la creazione di contenuti visivi digitali. Riassumiamo, prendiamo carta e penna, prendete tutti carta e penna, prendete i vostri device, è il momento degli appunti. Quali percorsi consigli per la formazione della tua figura e quali indicazioni app e siti? Riassumiamo appunto quelli che hai indicato, link, siti, app che possiamo subito fornire come consiglio. Per la formazione ovviamente ci sono tantissimi possibili percorsi, in quanto anche adesso stanno nascendo nuove scuole, nuovi corsi anche online, è un fattore che sicuramente aiuta tutti gli studenti a studiare da qualsiasi parte del mondo. Ovviamente consiglio dei corsi specifici dai quali è possibile specializzarsi ed essere seguiti da professionisti con lo scopo di crearsi un portfolio che segua gli standard di qualità richiesti dall'industria. Io ovviamente, avendo studiato a Torino presso il Politecnico di Torino e poi anche alla Bournemouth University, sono corsi che consiglio, però ci sono tantissimi altri corsi quali gli Escape Studios a Londra, la Think Tank Online, che è una scuola canadese ma che ha moltissimi corsi, come dicevo, online. E una volta appunto che si è intrapreso questo percorso di studi, per trovare lavoro ci sono ovviamente gli annunci su ogni singolo studio, ci sono studi famosissimi quali ILM, che è famosa per Star Wars o Jurassic Park, insomma ogni studio pubblica le sue applications nei propri siti internet, o c'è LinkedIn che racchiude tutte le offerte disponibili. App e siti per programmi? Per esempio Houdini per gli effetti speciali, oppure Nuke per l'ambito di compositing, che è lo step successivo, Maya, insomma basta fare un download su Google e si può iniziare a praticarli, ecco. Che tipo di sviluppo vedi per il futuro della tua figura, anche magari grazie a questi appoggi come le borse di studio, come magari appunto questi collegi di merito che ti hanno aiutato, ecco, quale tipo di sviluppo vedi? Andrà sempre migliorando perché ci sono molte più applicazioni, la nascita di nuove piattaforme quali Netflix, di streaming e così via. Gli effetti speciali verranno sempre più richiesti sicuramente, anche con l'arrivo delle applicazioni di VR e così via. E io mi sono sentita molto fortunata perché grazie al percorso del collegio mi sono sempre sentita stimolata, mi sono sempre trovata a contatto con persone che mi hanno anche insegnato a dare il meglio di me stessa e a voler di più. Penso che sia molto bello anche sfociare nell'ambito dell'insegnamento. Quali sono i tuoi film d'animazione e videogames preferiti? Sicuramente citerò qualche nome Disney, per i classici io ho iniziato amando La Bella Bestia, poi passando appunto al mondo del 3D il mio film preferito è Oceania, sicuramente pieno di simulazioni di acqua e così via. Per quanto riguarda i videogames, non sono una user professionista di videogames, però ci sono appunto tanti nomi quali Assassin's Creed, Horizon, insomma tantissimi videogames che sono così realistici. E il tuo effetto speciale preferito? Al momento sto lavorando con tantissima acqua, quindi mi sto specializzando in quello, dove appunto ci sono queste esplosioni di aerei che si schiantano nel mare, in oceani e così via, qualsiasi tipo di simulazione di acqua, ecco.